Con Agustina Macri, regista del film Soledad, alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 27 ottobre. Agustina, ben trovata. Come Ciao Federico, lo presenteresti il tuo film? grazie. È un film emozionante, forte, impegnativo. È un film che tratta di una storia vera e di personaggi veri che raccontano tante cose, mi sa. Da una parte c'è una storia fortissima di amore, breve ma forte, dall'altra parte un periodo politico molto particolare in Italia. E poi quello che volevo raccontare io di più è stato un po' il percorso che ha fatto Soledad come ragazza, come donna, diciamo, da quando è partita dall'Argentina con 23 anni e poi è arrivata qua in Italia a fare un anno pieno di azione, diciamo, perché alla fine tutta questa storia succede in un periodo brevissimo di tempo e per me la trasformazione che lei fa come persona, come donna, mi ha colpito tantissimo. Com'è nato il progetto film? Io ho letto il libro, mi sono trovata con il libro di Amore e Anarchia, scritto per Martín Caparrós, che quest'anno è stato editato per l'Einaudi l'anno 2015, quando lavoravo in un film di Oliver Stone chiamato Snowden, il suo ultimo film. C'era questa amica che mi ha parlato molto della storia, mi diceva così in continuazione che la dovevo leggere perché era interessantissima. E ho iniziato a leggere e subito mi sono colpita per tutto questo che ti raccontavo prima e ho iniziato a ricercare sulla web quello pochissimo che c'era e veramente mi sono, come dico sempre, un po' subito presa per lei, per la storia. Diciamo che il libro è stato un po' il ponte, ma poi ho fatto un percorso molto più lungo e molto più profondo per scoprire chi era Soledad e pure chi era Valeno. Come mai questa scelta come opera prima di toccare una storia così spinosa, così dolorosa e così rischiosa anche? Sì, io sono, diciamo, per essere il mio primo film, non lo so come mi sentirò dopo, ma già mi sento molto diversa in il confronto di un nuovo film, no? Diciamo, mi sento molto diversa adesso che devo pensare oppure soltanto fare un primo esercizio di pensare cosa vorrei raccontare, no? In un prossimo film. Ma invece quando penso io, nella mia esperienza molto personale, quando fai un film per la prima volta, c'hai un po' un grado di, diciamo, di inconscienza nella scelta, perché è una scelta molto più profonda, molto più intuitiva, molto più, come si dice, viscerale, si dice in spagnolo, come sì, dopo io mi fermo, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che ho scoperto, sono molto convinta del film che ho scelto, ma sono pure un po' come d'accordo che da un primo sguardo sembra una storia molto, molto difficile da raccontare per essere un'opera prima. Che tipo di ricerca hai fatto per entrare dentro questa vicenda? Come ti dicevo prima, un po' il libro, che è un libro molto, che lavora molto il dettaglio, è veramente un libro molto completo, c'hai tutto, racconta tutto il suo passato in Argentina, come è cresciuto, la sua famiglia, l'educazione e poi come arriva in Italia, racconta un po' la storia di Torino, del movimento anarchico, quindi lì avevo un bel materiale per iniziare. Poi ho scoperto Le scarpe di Tuccini, scritto per un anarchico torinese che si trova senza copyright certamente su internet e quello mi ha aiutato tantissimo perché lui ha fatto un lavoro molto in dettaglio di quello che è successo a livello processuale, diciamo, del giudizio, di come venivano registrati questi ragazzi, di cosa parlavano e quello è diventato un materiale molto forte per costruire qualche scena per farla più, diciamo, più reale. E poi la famiglia di Sole, che soprattutto la madre, l'ho sentita un paio di volte, ma come tu dicevi prima, c'è tantissimo dolore nella famiglia, nel ricordo di Sole, dopo 20 anni ancora sembra una storia molto viva, quindi io provavo di avvicinarmi, di capire, di sentire cosa sentivano loro, ma con molto rispetto e con molta tensione. Poi mi ha aiutato molto a vivere in Italia per gli ultimi 3 anni, sono stata molto qua e capire attraverso le persone, ho conosciuto un psicologo che ha conosciuto loro, ho fatto contatto con l'avvocato loro che è a Torino, quindi stando molto pure a Torino, andando a vedere i posti veri dove loro abitavano e capire un po' di più l'aria, diciamo, l'aria che si vive ancora e che si viveva in quell'epoca in Italia, perché in Argentina, come ti posso spiegare, la storia c'ha come un altro punto di vista, no? Alla fine tutto quello forte aveva successo qua in Italia, la storia si capisce in un modo diverso. Ma diciamo che con tutto quello insieme ho fatto un bel lavoro insieme al sceneggiatore Paolo Lolli, che mi ha aiutato tantissimo pure. Impressione hai ricavato da questa vicenda e dalla figura di Soledad? Su di lei dici cosa. Sia su di lei che tutto quello che è successo. Io lo vivo come, da una parte, come una ingiustizia molto profonda, molto, molto dolorosa, molto triste, che alla fine per me diventa una storia che vale tantissimo la pena raccontare, perché soprattutto ho scoperto qua in Italia che non c'era tanta gente che la conosceva. Poi ho scoperto una ragazza fortissima, fortissima veramente, di un coraggio, di una mentalità, con un senso di lotta, di lottare per quello che lei veramente capiva o sceglieva in quel momento, che a me mi ha colpito tantissimo pensare come ero io a 23 anni, che mentalità avevo io, come pensavo la vita, e poi a pensare in questa ragazza che arriva dall'altra parte del mondo e veramente si trova nel suo posto e diventa, come ti dicevo prima, per me pure una ragazzina che diventa una donna con una forza, un'icona davanti a un movimento, davanti a un gruppo, che a me mi ha fatto tantissima ammirazione. Il film è stato contestato sul set sia a Torino che a Genova. Ecco, che tipo di confronto c'è stato con l'area anarchica che ha mosso queste proteste? Tutto è iniziato un po' quando io stavo per, diciamo, per arrivare a Torino a iniziare propriamente la preproduzione. Prima di quello io andavo a Torino a fare qualche scouting e non c'era niente ancora che si sentiva, neanche si ascoltava. Ma poi quando io inizio a lavorare con lo scenografo di Milano, Maurizio Kovacs, e lui mi spiega che c'era gente che forse ancora rispondevano come non molto interessati in essere parte di questo progetto, da lì è iniziato, diciamo, come un'altra tappa del film dove io dovevo capire cosa stava succedendo indietro. Abbiamo provato a fare contatti con loro, a spiegare un po' com'era la sceneggiatura, com'era il punto di vista che avevamo davanti alla storia, ma loro non hanno mai voluto parlare veramente e hanno iniziato da un giorno all'altro questo boicott, che io ho rispettato molto, ma che mi dispiace tantissimo perché alla fine io sempre ho sentito profondamente che questo film era di parte loro, invece alla fine ho finito lavorando piena di gente della Digos, della polizia italiana, quando questo film era tutto l'inverso, diciamo. E poi quando noi decidiamo andare via da Torino perché la situazione non poteva andare avanti, non si poteva lavorare in quelle condizioni. Loro funzionano, mi sa, come una rete, quindi quando siamo arrivati a Genova c'era un altro centro sociale che aveva già stato avvertito della nostra presenza, sono venuti lì, che loro pure non volevano dialogare, non volevano parlarci, erano soltanto gente che voleva fermare, diciamo, fermare le riprese, ma non so, per fortuna il film è andato avanti, abbiamo completato tutto il piano di lavoro che avevamo e io sono ancora convinta che questo film è a favore loro, quindi e che c'è sempre il diritto della libertà di espressione, soprattutto artistica, e la storia di Sole è una storia bellissima che la famiglia appoggia in questo caso e che per me valeva moltissimo la pena raccontare perché è l'unico modo di conoscere questa ingiustizia. Se noi rimaniamo chiusi a non raccontarla, forse so veramente di quello, diciamo. Il film avrà un'uscita in Italia? Ci sono già alcune certezze in proposito e voglio sapere, ecco, anche rispetto all'estero. Per il momento non c'è nessuna certezza di quello, non abbiamo un'uscita ufficiale commerciale in Italia, ma sì, sicuramente uscirà il film, come un film, secondo me, com'è, un film indipendente, di autore, che spero che con tanta ansia trovi la sua strada in Italia per farla, come ti dicevo prima, conoscere ancora di più la storia. In Argentina è uscito a settembre, le critiche sono state molto buone. È stato un periodo molto bello del cinema argentino dove tanta gente va. Quindi quella è una cosa che in Argentina succede con molto piacere e questo film è stato ben ricevuto, no? Sono molto contenta, quindi ho la stessa aspettativa in Italia perché, come ti dicevo, per me è un film italiano più che argentino. Allora, ricordiamo l'appuntamento alla Festa del Cinema di Roma il prossimo 27 ottobre con Soledad, l'opera di esordio alla regia per Agustina Macri. Agustina, un saluto e a risentirci presto. Grazie mille Federico per il tuo tempo e sì, spero che arrivarci presto. Grazie mille.